Cos'è? Ma cos'è? Sì. Sì, sì. Ma cos'è? Le mosche? Ma basta! Ti schiacci come una mosca, eh? Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da quello lì con gli occhiali. E un saluto da quello lì senza occhiali. Oggi parliamo di futuro. Ah sì? Drago, ma è venerdì. Il futuro. Ma che argomento weekend, triste, no? il futuro. Ma come il futuro è triste? Il futuro fa sempre venire in mente la speranza. Ma no, la adesso, speranza adesso futuro. C'è la crisi, Drago. Anzi, adesso che c'è la crisi. Ho capito, c'è la crisi, però qui all'asilo, circondati dai bambini, un po' di speranza ci viene. Beh, o no? Lo dici tu. No. Cosa faranno da grandi tutti questi bambini, per esempio? Guarda che l'interrogativo è angosciante, Drago. Altro che sbagli, no? Perché questa è proprio la sfida, caro mio. Immaginare adesso quali lavori faranno i bambini domani. E sai che è dal 2007 che ci stanno pensando quelli della Louisiana University di Lafayette. Figurati se ci mancava l'università americana. E questi di Lafayette. Ci pensano, sì, dal 2007 sì. Sono a Lafayette e ci pensano. E quando finiscono di pensarci, non lo so, però no, sono lì che si sforzano di immaginare le professioni che ancora non esistono, tipo lavorare con gli androidi, no? Cos'è lavorare con tra poco avremo degli specie di automi così in grado di lavorare al posto nostro, però ci saranno degli esseri umani che dovranno controllare gli androidi. Cos'è, fantascienza anni 50? Ma no, dai, è così, diventerà questo un lavoro. Cioè noi saremo i servi degli androidi. No, i manutentori degli androidi. Manutentori, che è la stessa cosa. Comunque dai, è un giochino interessante, perché i nostri genitori, ad esempio, non avrebbero mai immaginato come avremmo lavorato noi. Quando noi eravamo alla scuola elementare, il mondo era completamente diverso, non c'erano neanche le fotocopiatrici. Infatti il lavoro di stegista addetto alle fotocopie non esisteva ancora. Bravo, ma quante persone oggi si sentono realizzate facendo lo stagista addetto alle fotocopie? È ironia o è una domanda seria? Vabbè, allora, quali saranno gli omologhi dell'innovativo stagista addetto alle fotocopie tra 20 anni? Non so, tipo lo stagista che pulisce la lettiera del gatto dell'androide. Oppure l'assessore alle politiche vaginali, non so. Queste sono le future professioni, no? No, semmai la sentinella che protegge i rari giacimenti di acqua potabile. Oh, quella questo sì, è molto ecologista. Va bene, se avete delle idee per le professioni del futuro, telefonate allo 02 46 52 44 95 e fatecele sapere. Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. Quando abbiamo cominciato a lavorare noi, c'era da poco il fax e sembrava una grande novità. E pensa che la storia d'amore tra André Agassi e Brooke Shields nacque via fax. Al posto degli SMS si usava il fax. Romantico, no? Quando sei in tournée, per esempio, con gli artisti, la mattina che ti svegli in albergo, fai colazione, poi tutti salgono a mandare dei fax. Ma non sono dei veri fax, capito? Mi sa di no. Salgono a fare i loro conti. Comunque si usa ancora, quindi volevo dire che si usa ancora. Quindi il fax è ancora molto usato. Ai nostri tempi si usava anche il telex, non so se te lo ricordi, la telescrivente. Che era una specie di enorme catafalco che la SIP ti dava incomodato d'uso. Tu lo mettevi in una stanza e lo lasciavi lì. Con l'arrivo del fax ha smesso di esistere. Poi non c'erano i cellulari, chi ce l'aveva aveva una valigetta di corazza da campo militare, quindi si lavorava senza telefono. Il discorso appunto di immaginare la professione del futuro è che l'immaginazione ha proprio un difetto, il difetto di essere legata alla condizione del presente, di chi immagina, capito? Prego, è venerdì. Scusa, Kubrick, quando ha fatto il suo film sul 2001? Non è sul 2001. Vabbè, si chiamava 2001 Odissea nello spazio, vuol dire che era ambientato nel 2001. Come se l'è immaginato Kubrick il 2001? Esattamente come il 1968, però super cool, con tutto il design minimalista bianco, che era una novità dell'epoca, pop art. E quindi era in realtà il 1968. Ma scusa, 2001 Odissea nello spazio, cioè di Kubrick, non è che puoi arrivare tu, Drago, e dici come no? Puoi? E ora, bambini, ricreazione. Ema La mamma di Ema. Allora, ma che se continui così diventi deficiente come tuo padre. Ma come? Ma dà del deficiente a suo marito adesso? La mamma di Ema. Spieghiamo un po', perché sono passati dei mesi. Ema è un bambino che abita vicino al bambino Alberto e ti capita di vederlo, giusto, Mino Alberto, ogni tanto ai giardinetti. Con una madre terrificante, una rapia. Che grida Ema. Che urla sempre, Ema! Non le fa fare niente, poi lo insulta. Però sappiamo anche che c'ha il marito, che fa il camionista, che mena sempre Ema. E mena quando torna e fa il viaggio lungo, Bielorussia Italia. Però lei, non li gira, no? Scusa, ma lei è rispettosa del marito o no? Era l'ex marito! Come ex marito? Ma sì, la mamma di Ema e suo marito si sono separati. Hanno divorziato! Ma sì, ho capito, però povero bambino Ema, già. E adesso? Bambino Ema per lui non è cambiato niente, anzi forse è peggio. Per adesso la mamma di Ema la vedo tutti i giorni ai giardinetti con uno diverso, con un marito diverso. Ma non marito. Non so, saranno... e viene sempre nel parchetto con un adulto diverso. Tutti saranno i giorni. Dei parenti, no? Dei parenti, cugino, fratello. No, allora un giorno con il minus. Un giorno con il disoccupato, un giorno con il deficiente, sono un giorno con stato di grazie e alla fine, il sabato mattina, sì, perché poi lui deve andare a imbottigliare, faccia di fegato. Ma chi sono questi personaggi? Cosa stai dicendo, bambino? Sono le persone del quartiere, no? Che hanno anche loro i cagnolini e hanno tutti un soprannome, perché un quartiere vecchio tipo, no? Sì. La gente si conosce, c'è anche Provenzano, Come Provenzano? Sì, no, quello dei pizzini. Il soprannome di uno, no? Provenzano, va bene. Gruff. Poi ce n'è. Vabbè. E cosa fanno? Portano i cani lì, insomma, al parchetto. E nel frattempo fanno le veci del papà di Ema. Ma cos'è? Cioè, firmano il diario, le note? Non lo so, che arrivano lì, mai visto una conoscenza. Mai visto Ema? Ema! Uno anche loro! Vieni qui subito che ti do una cinghiata che... E sì, perché si dicono, questo qui è mio figlio, no? E allora giù di botte, no? Allora... E quindi questo sarebbe fare le veci del papà di Ema? Uno diverso ogni giorno? Sì, perché magari loro vorrebbero anche continuare. Però più di un giorno nessuno ci resiste. Ah, sì, certo. Sì. No, la mamma di Ema è insopportabile! Sì, anche come amica, come sorella, come cugina. Già il fatto che non è granché, diciamo. Sì. In più, con quel carattere orribile che ha, voglio vedere chi riesce a starci insieme per più del tempo del parchetto. Tutto più un negroni per cercare di svenire. Vabbè, ma scusa, tutti quegli uomini, una volta che ottengono tutto quello che vogliono, ma cosa? Capo. Vabbè, ma poi la lasciano, è chiaro. Una volta ottenuto cosa? Ma niente, niente, bambino Alberto. Ma cosa? Niente, spiegatemi. Ma no, niente, loro, perché loro vogliono andare solo al parchetto a urlare, Ema, vieni qui che t'ammazzo, capito? Una volta che l'hanno fatto, sono a posto, sono sazi, non ci pensano nemmeno più a uscire con la mamma di Ema, capito? Adesso ho capito. Perché io pensavo che questi qui volessero andarci a letto con la mamma di Ema. Perché sentivo dire, mamma di Ema, devo fare un riposino. C'è mica la casa libera per un riposino? Ma a fare cosa? Non so, fare sto riposino. Ma... E ci vuole fare questi riposini? Magari loro a casa c'è la moglie che è noiosa. Non vuole fargli fare il riposino, vanno dalla mamma di Ema. Adesso si chiama riposino. Un 20 minuti, perché dopo vanno fuori di matto, perché è insopportabile. Poi in casa ancora di più. E mettiti le ciabatte, qui non toccare, io uno che non lo conosce. Ma tu cosa ne sai, mica li vedi, sei al parchetto. E io sento loro, io origlio. Origli dove? Fingo di grufolare intorno alle panchine. Cosa grufoli? Ma sì, i bambini che toccano dappertutto, tanto penso questo non capisce. No, tu non capisci. Io qui ho già capito come il giro. E qui tu ti ha che faccia di fegato. Allora, mamma di Ema, perché la chiamano mamma di Ema, no? Ma come? E perché non sanno come si chiama. Ah, è un soprannome, siccome faccia di fegato è un soprannome. Eh no, faccia di fegato no. Ma come? Cioè, faccia di fegato è il suo vero nome, no? Cioè? Faccia di fegato. All'anagrafe. Cioè come... di fegato il cognome. Sì, come Agostino di Bartolomè. Che però, purtroppo anche lui, come tanti altri, dopo una lunga carriera nella Roma e nel Milan, è morto. Insieme ai vostri messaggi che avete lasciato allo 02 46 52 44 95. Chiedo asilo di questa settimana finisce qui. Ringraziamo Pietro Lacorte, ringraziamo Laura Faggin, ringraziamo Alberto Caserini, Daniel Plenz, Tommaso Varvello e Guido Bertolotti. Un sacco di gente, mentre Drago si sta allontanando finalmente. Chiedo asilo ha vinto oggi la 63esima edizione del Prix Italia nella categoria dramma originale con Pollicino. Una puntata speciale sul tema dell'immigrazione ispirata alla fiaba di Charles Perrault. Radio 24 trasmetterà la puntata domenica alle 20:15 per festeggiare il successo tra 21 programmi candidati da tutto il mondo.